Allora, passato da poco mezzogiorno, ritorniamo in voce, siamo sempre in compagnia di Carlo, con cui insomma facciamo le ultime due chiacchiere. Allora Carlo, insomma, del reato di devastazione e saccheggio abbiamo già parlato, peraltro ne abbiamo parlato anche ieri e continueremo a farlo, di questo reato che in tutto e per tutto si esplica come un reato di carattere dalla forte connotazione politica, proprio per via dell'indeterminatezza, insomma, delle norme che lo regolano. Però insomma, ritorniamo alla tua esperienza di quei giorni, perché il caso ha voluto che insomma, tu finissi, oltre, cioè, insomma, tu sei stato tra gli unici, insomma, a essere arrestato, come hai detto, proprio lì in piazza, in circostanze anche peraltro abbastanza tranquille, se così si può dire. Poi però ti è toccato anche passare, insomma, da Bolzaneto, che per molti è stato il vero inferno, insomma, in quei giorni. Se ti va, puoi dirci, insomma, due parole su come hai vissuto tu questa cosa. Non penso di averla vissuta in maniera differente da nessuno, cioè, è stato un problema per tutti. Io posso soltanto dirti che 17 ore di Bolzaneto sono state per me, per molti è stato di più. Le tensioni che c'erano lì all'interno, tutte reali, cioè, nel senso, le cose che ho visto, le testimonianze che sono venute fuori, cioè, di quello che ho sentito, in confronto a quello che ho visto, non ho sentito niente di non vero. È stato sicuramente una bruttissima esperienza, questo sì, sicuramente. Incredibile quello che possono realizzare un gruppo di poliziotti senza controllo nei confronti di persone che probabilmente nel loro piccolo credevano che loro dovessero difendere, visto che sarebbe quello il loro ruolo in questa società. Invece è andato a finire che praticamente sono diventate, come dire, dei momenti per queste persone sfogare delle probabilmente ideologie represse, delle metodologie antiche, comunque tutto basato su un astio politico. Perché comunque, se non fosse stato così, non ci sarebbero state storie di gente che faceva cantare inni, canzoncine, o che chiedeva di inneggiare a certi personaggi storici oramai decaduti. Diciamo che nell'insieme non penso che sia, diciamo, una cosa che posso, diciamo, raccontare più di quello che già è stato detto. Cioè, è stata un'atrocità che penso che l'Italia si dovrebbe vergognare, cioè proprio nel suo impatto sociale totale, tanto che anche Amnesty ha riconosciuto che si è comportata male. Senti, quanto hai scontato tu già in carcere, tra carcere e domiciliari? Io ho 15 giorni di carcere, 6 mesi circa e qualche cosa di domiciliari, poi a piede libero fino ad oggi. Speriamo, insomma, che tu possa restare a piede libero. Io vorrei, ce l'auguriamo, certo, vorrei, insomma, che non ci dimenticassimo anche un aspetto così un po' controverso, e che in fin dei conti, insomma, ci riporta un po' alle considerazioni iniziali che facevo prima di aprire questa chiacchierata con te. Stanno all'autocritica che necessariamente dobbiamo anche fare, affinché magari si possa imparare dagli errori del passato. Abbiamo detto che tu comunque inizialmente, insomma, lì in quei frangenti non è che avessi come riferimento un centro sociale, qualche organizzazione, eri, come si suol dire, un cane sciolto, non so come dirlo, uno dei tanti, insomma. Uno dei tanti, che sicuramente non erano tantissimi, che comunque erano saliti soltanto per apprezzare il piacere di una manifestazione così grande, di un'idea collettiva così potente, che si sperava potesse essere considerata magari negli anni successivi da generazioni future, se tutto ovviamente fosse andato per il verso giusto, cosa che non è successo, come un bel ricordo, una pseudo Woodstock italiana di un pensiero comune che comunque oggi stesso, per fortuna, è diventato più comune per tante persone, perché oggi molte persone, molti elementi che prima dicevano no, oggi dicono sì, cioè, che non era una cosa da fare, che questa cosa ci sta creando problemi sotto tanti punti di vista. Quindi evidentemente forse magari i modi di portare avanti il discorso potevano essere sbagliati, ma gli argomenti erano comunque giusti. Ecco, l'accenno autocritico era relativo al fatto che durante tutti questi anni, insomma, in fin dei conti, ecco, nessuno, cioè tu non sei stato contattato, si sei trovato un po' isolato, diciamolo. Noi, non appartenendo realmente a nessun gruppo, a nessuna associazione, a nessun centro sociale o quel che si voglia dire movimento, diciamo, finita la parte tecnica, nessuno ci ha chiesto esattamente cosa ne pensassimo, come potevamo stare. Parlo al plurale perché insieme a me c'è un altro ragazzo di Palermo, Antonio, che comunque ha subito la mia stessa situazione perché eravamo insieme, quindi diciamo quello che vi sto raccontando si può considerare in un certo qual modo, per quanto riguarda le azioni, da dividere per due, cioè nel senso eravamo insieme al motore, siamo stati arrestati insieme, per tutto il viaggio siamo stati insieme fino al ritorno. Scusate. Il fatto di non appartenere a nessun gruppo ci ha sicuramente non agevolato, questo sì, perché non essendo parte integrante di nessun movimento sembra quasi che le persone abbiano... Questo vale un po' per tutto l'argomento, non si sa per quale strano motivo l'argomento Genova è stato non lo so, una cosa forse talmente scabrosa che la gente tenta di dimenticare a livello assolutistico e quindi proprio non ne vogliono parlare. Ora se ne sta iniziando a parlare, questo fa piacere, come si dice, meglio tardi che mai. Anche per questo devo ringraziare anche voi che state dando questi spazi, tante altre persone che hanno fatto tante altre cose, tra cui anche film, ho visto delle opere al cinema, Diaz se non erro, non voglio fare una pubblicità, però è giusto dire quello che è. Quantomeno qualcuno ha avuto il coraggio di fare un prodotto che racconta una storia, devo dire a mio avviso, per quello che ho visto, non essendo stato per fortuna alla Diaz, però tutto il contesto esterno è stato descritto, devo dire, abbastanza veritiero, potrei dire un 95% di verità ci sta all'interno del film, quindi consiglio la visione, visto che siamo in fase pubblicitaria, andatela a vedere. Non appartenere a questi gruppi ha fatto sì che le persone nessuna associazione ci ha supportato. Quelle poche che si sono mosse raccogliendo o muovendosi per queste cose in realtà non avevano nessun contatto con noi. C'è stato triste comunque vedere che alcuni gruppi, alcuni movimenti hanno cavalcato l'onda della possibilità di utilizzare nomi, cognomi e eventi tristi come quelli di Genova per magari alzare soldi per una serata col bar. Triste che loro dicano che sono soldi che vanno alle spese, che vanno a noi, che abbiamo dovuto affrontare comunque delle spese, se non fosse stato per il Genova Social Forum e tutti questi enti che si sono proposti di aiutarci, noi avremmo dovuto affrontare molte più spese, però quantomeno delle spese reali ci sono state. Dà fastidio che comunque questi gruppi si propongano portatori di, diciamo, di giustizia quando poi realmente non l'hanno fatta, che comunque a noi non ci hanno mai contattato, non si è mai visto una lira, come si vuol dire. Beh, questo insomma così è un po' una conclusione forse amara, ma ci dovrebbe portare a riflettere, magari ci può essere da insegnamento, perché insomma in una situazione come quella che viviamo oggi, in tempi così duri, laddove comunque le contraddizioni vanno esacerbandosi, lo vediamo tutti i giorni con la gente che perde il posto di lavoro, con magari la cartella esattoriale che arriva a casa e tantissimi altri problemi, l'impossibilità di raggiungerlo il proprio posto di lavoro perché i trasporti ad esempio sul piano locale sono uno schifo e quant'altro, tutti i motivi che possono portare comunque alla rabbia e al diffondersi di una rabbia sociale e che può chiaramente raggiungere individui anche slegati tra loro e che per lo più insomma magari non vivono la politica nel senso di militanza, magari la vivono nel quotidiano. Ecco, rispetto a questo insomma è chiaro che il senso di atomizzazione, di frammentazione che ci troviamo a vivere, insomma dovremmo cercare di superarlo anche a partire da un atteggiamento diverso nel seguire le vicende repressive che seguono i grandi raduni, i grandi appuntamenti e le grandi manifestazioni, perché è un senso di responsabilità al quale, insomma, non si può venire meno se si vuole essere poi conseguenti, insomma, con tanti discorsi che si fanno, e se non si vuole poi rimanere schiacciati poi da questo meccanismo repressivo che fa proprio dell'isolamento un'arma vitale, insomma, proprio per garantirsi lo status quo, come si suol dire. Ecco, noi spesso diciamo che la solidarietà è un'arma, e bisogna, insomma, fare in modo che questo discorso valga e che si porti avanti con un po' più di costanza, anche se bisogna dirlo, Carlo, le forze a disposizione purtroppo non sempre sono adeguate all'impegno e agli sforzi che ci vorrebbero, quindi non è facile, chiaramente non è facile, però ecco, uno sforzo in più certamente lo si deve fare, anche a partire dal modo in cui è andata tutta la questione di Genova, insomma. Senti, niente, il 13 tu immagino attendo. Che... No, volevo aggiungere una cosa, sì, sulla solidarietà, che hai perfettamente ragione. Io vorrei approfittare un attimo di questo spazio che voi gentilmente ci state concedendo, perché appunto parlo, non dico a nome di tutti i ragazzi, ma comunque di chi era a Genova e ha subito tutte queste cose. Io volevo ringraziare quei tre ragazzi di Milano che hanno assistito al nostro arresto e che per solidarietà hanno subito chiamato il Genova Social Forum e che hanno fatto sì che in un momento successivo del processo noi potessimo dimostrare che loro avevano inventato praticamente di sana pianta tutto un arresto che ci indicasse come dei pericolosissimi criminali dove tentavamo un omicidio, un attentato a una caserma, lanciando molotov, facendo veramente delle cose cinematografiche anche a livello molto interessanti, perché si parla quasi di questi film d'azione. Voglio ringraziare questi ragazzi, perché se non ci fossero stati loro noi avremmo subito veramente tanti problemi in più, avremmo avuto enormi difficoltà a dimostrare questa cosa, perché comunque la loro parola è servita, in quanto erano persone che da fuori avevano visto una situazione senza conoscerci, senza avere nessun contatto con noi, avevano dimostrato che comunque il nostro racconto era esattamente come l'avevano raccontato loro, e questo è stato molto utile, quindi li ringrazio veramente, perché se ci fossero più persone così solidali, chissà quante altre persone sarebbero magari fuori per una testimonianza del genere. Quindi è giusto che la solidarietà venga un po' alzata tra le masse. Benissimo, e allora una solidarietà che speriamo, insomma, si realizzi sempre di più, e che lo sforzo che si sta facendo, sebbene in un tempo così limitato, produca qualcosa, produca i suoi effetti. Speriamo, insomma, che chi debba decidere, insomma, lo faccia anche ascoltando magari queste riflessioni, queste impressioni. Noi da par nostro cerchiamo di fare il possibile e speriamo che chi ci ascolta, voi che ci ascoltate, sarete in tanti anche domani sera, quando ci sarà un nuovo momento, insomma, per dare sostegno e visibilità ai ragazzi e le ragazze imputate per i fatti di Genova, che nessuno vada più a finire in carcere per i fatti del 2001, che i compagni e le compagne riescano a mantenere, insomma, la libertà, che chiaramente è un patrimonio di tutti e di tutti, e che noi auguriamo a tutti e tutte. Bene, Carlo, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Tanto ci si vede in questi giorni. Assolutamente. Ciao, grazie. Grazie. That won't let you go.